Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, l'ultima della settimana con voi Sebastiano Barisoni come sempre. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda i temi, chiaramente oggi dati, come già vi hanno anticipato i nostri GR, sul debito pubblico ma soprattutto sul PIL italiano. E allora, oggi c'è il sole in buona parte d'Italia, vediamo di non rovinarci troppo la giornata, però il dato sul PIL è quello atteso, ossia un rallentamento della crescita nel trimestre che si è appena concluso, più 0,2% contro attese anche del Centro Studi Confindustria inizialmente di uno 0,5%, il che vuol dire che l'anno si chiuderà in maniera più debole e ripartirà anche più debole come effetto, diciamo, trascinamento, come si chiama in gergo. La borsa oggi è di nuovo negativa, non in maniera drammatica, però meno 0,3%, perde di più oggi Parigi, meno 1,21%, e ancora Francoforte, meno 0,15%, Londra, meno 0,43%, l'America perde lo 0,80%. L'euro è sempre sui livelli più bassi dell'ultimo mese, come in qualche modo non tanto esito del poco efficace vertice dei G20, già ieri ne abbiamo parlato a lungo, quanto per i timori, e di questo parleremo oggi, che l'Irlanda diventi la prossima Grecia. Continua a aumentare infatti la differenza tra quanto rende un'obbligazione irlandese e quanto rende un'obbligazione tedesca, cioè quella più affidabile di tutte. Continua quindi l'Irlanda a dover pagare un premio molto alto per il rischio di investire nel suo debito. Si muovono in maniera analoga anche altre obbligazioni, tra cui quelle italiane. Anche qui, attenzione, non ci sono paragoni possibili, però insomma, i tassi con cui oggi il nostro Ministero del Tesoro ha collocato 4 miliardi e mezzo di BTP a 5 anni sono stati in netto rialzo, ossia al 3,24% lordo, in rialzo di 71 centesimi, che non è poca cosa. E, tra l'altro, dal 29 ottobre ad oggi il differenziale tra quanto rende appunto l'obbligazione, il BTP a 10 anni in Italia e l'equivalente BTP a 10 anni in Germania è passato dall'1,4% all'1,8%, praticamente un 30% in più dobbiamo pagare per riuscire a far finanziare il nostro debito. Quello spagnolo un 30% in più anch'esso, quello portoghese un 30%, cioè tutti si sono mossi, diciamo. La Spagna rende invece che l'1,7% il 2,2%, il Portogallo invece che il 3,4% il 4,3%, e ancora l'Irlanda invece che il 4,4% il 5,7%. Di questo parleremo in apertura assieme ai dati macroeconomici. Poi, dicevo, come sempre la borsa, il Banco Popolare oggi è molto forte, più 4,27%, Parmalat più 4%, Monte dei Paschi più 2,5%, ST Microelectronics più 1,40%, come la Popolare di Milano. E da questo punto di vista vale la pena riconoscere che anche Unicredit va bene, più 0,6 come UbiBanca, mentre Geox pesante, il tonfo oggi meno 8%, Bulgari meno 4,90, Buzzi Unice meno 2,80, Fondiaria meno 2, Saipem meno 1,90, Telecom meno 1,5, Eni perde l'1,3% come Mediaset e Ansaldo STS, l'1,2 lo perde Prismian, l'1,1 Finmeccanica e infine l'1% Autogrill. Parleremo più avanti di Geox ma anche di Banco Popolare, oggi appunto in netto recupero. È stata un'altra giornata ricca di trimestrali, perché insomma è la settimana delle trimestrali, anche di questo parleremo nel corso di questa diretta. E poi l'appello, o meglio l'offerta avanzata dagli industriali veneti per voce del loro presidente Tomat: siamo disponibili a aiutare le aree del Beneventano, ma non solo, che sono alluvionate in Campania. È interessante perché, come il nostro GR ricordava questa mattina, dalla Campania sono invece arrivati aiuti per le aree alluvionate nel Veneto. Insomma, una specie di virtuosa gara all'aiuto reciproco, e quindi insomma, di fronte a una politica che potremmo dire con una battuta si spacca su tutto, c'è una parte del paese, con un po' di retorica forse lo diciamo, in cui invece si fa la gara alla solidarietà. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Vedo già molti messaggi sull'andamento delle obbligazioni italiane, non c'è nulla di drammatico, però sicuramente siamo a livello più alto come differenza tra quanto rende un BTP italiano e l'equivalente tedesco da quando esiste l'euro. E non è una bella notizia, lo so. Vabbè, petrolio apre in calo, New York, $86.5 al barile, l'oro, insomma, sempre a $1.400 l'oncia, e poi il vertice G20 di Seul. Come già vi avevamo anticipato ieri, si è arrivati alla fine a un documento comune di 5 punti. Diciamo, definire gli impegni generici è quasi un eufemismo, si va da politiche monetarie, commerciali e di sviluppo comuni, risanamento dei bilanci, riforme finanziarie. Non, nessun passo avanti. La cosa che abbiamo scoperto invece sulla rete è che nel frattempo in America hanno lanciato un vero e proprio rap sul finto scontro Obama-Cina. Il gioco di parole: non sono nemici, sono nemici amici. Tutto giocato sul vertice di Seul. Non avremmo mai pensato di trovare un rap su Obama e il premier cinese, soprattutto perché la canzone, adesso non possiamo tradurla, ma dice in sostanza: fanno finta di essere nemici, ma in realtà si appoggiano, non sono nemici, sono amici nemici. In realtà, a giudicare da quello che hanno detto sia Hu Jintao che Barack Obama, insomma, i temi sono ancora tutti sul tappeto, indicazioni molto molto generiche, la ripresa c'è ma restano rischi, bisogna fare di più, bisogna attivare un gruppo di lavoro sui cambi, mettere la creazione dei posti di lavoro al centro della ripresa, occorre risanare i conti e nuove regole per la finanza. E poi Obama che dice: ora è più facile parlare con Hu Jintao di valute, perché il tema interessa i due paesi. They are not enemies but frenemies, friend and enemies, nemici amici. E poi Obama: la priorità è il taglio delle tasse per la classe media, la decisione della Banca Centrale Americana serve a far crescere l'economia, ma in effetti è anche perché in effetti c'è un pericolo di deflazione in America. E poi Barack Obama, che adesso ascoltiamo: la crescita americana è una priorità non solo per gli Stati Uniti, ma per tutti i paesi. The most important thing that the United States can do. La cosa più importante che possono fare gli Stati Uniti per l'economia mondiale è crescere, perché continuiamo ad essere il più grosso mercato mondiale e un enorme motore per la crescita degli altri paesi. Paesi come la Germania, che esportano moltissimo, traggono beneficio dal nostro libero mercato e dal fatto che acquistiamo i loro beni. E questo vale per tutti i paesi membri del G20. In maniera prudente vogliamo essere sicuri di dare un input alla crescita sia nostra che degli altri paesi. È difficile da fare se si ricreano gli enormi squilibri che hanno contribuito alla crisi dalla quale siamo appena passati. E non credo che questo sia messo in discussione da qualcuno. Abbiamo messo a punto una struttura di azione a Pittsburgh e questo rappresenta soltanto un proseguimento a ciò che abbiamo già fatto. Ecco, chissà se arriverà mai anche in Italia una canzone, un rap sull'economia. Però ripeto, il testo è molto interessante perché dice, insomma, tutti recitano una parte, fanno finta di essere nemici, ma in realtà si tengono uno con l'altro. Mario Draghi, Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, nonché presidente del Financial Stability Board, dice bene i progressi, ma siamo a metà strada, e se lo dice lui. I leaders anche ieri sera a cena hanno riconosciuto che la parte finanziaria è l'area dove c'è stato maggior progresso nei mesi passati, ed è un progresso che loro hanno sancito con la loro approvazione. È un progresso che si concretizza nel piano di lavoro dei mesi a venire per quel che riguarda le istituzioni che sono troppo grandi per fallire e per l'applicazione di Basilea 3. Ma non è il solo successo di questo vertice. Il vertice ha affrontato dei temi molto complicati, dei temi complessi come quelli degli squilibri globali, e ha iniziato un percorso. Il fatto che non si siano ancora visti dei risultati non vuol dire che questi risultati non verranno. Ha iniziato un percorso su una materia straordinariamente difficile ma vitale per l'economia mondiale. E mentre gli amici nemici si dilettano in questi cinque punti, ripeto, di una vaghezza delle volte imbarazzante, ma non è riferito a Mario Draghi, dicevo, in Europa si cerca di in qualche modo strutturare una rete di protezione per l'Irlanda. Eh sì, perché l'Unione Europea oggi ha assicurato che c'è una rete anticrisi, lo hanno detto i ministri delle finanze dei cinque paesi dell'Unione Europea che siedono al tavolo dei G20, quindi Francia, Germania, Italia e Regno Unito, dichiarazione congiunta per rassicurare i mercati sulla situazione finanziaria, in particolare dell'Irlanda e in generale di vari paesi a rischio nell'Unione Europea. Vi arriveremo tra brevissimo. Nel frattempo noi torniamo con le nostre notizie in breve, anzi no, passiamo al primo tema che riguarda proprio i conti italiani. Oggi il dato sul PIL, dato anche sull'indebitamento, questo insomma più fisiologico, e soprattutto sullo sfondo il rischio del voto sulla finanziaria. Non dovrebbero esserci sorprese, ma insomma con il chiaro di luna a cui assistiamo in politica nulla è certo. Eh sì, perché procede in commissione di bilancio la votazione sulla finanziaria, dopo che il centrodestra è riuscito a respingere una serie di emendamenti alla prima proposta di modifica relativa al maxi emendamento del governo, si è assistito però a una votazione sul filo di lana. L'emendamento riguardante il trasporto pubblico locale, le tariffe più 30%, il servizio meno 20%, è stato bocciato solo all'ultimo dai componenti di i Fiellini, di Fini e il Movimento per l'Autonomia di Lombardo. Poi aumentano, dunque, taglia dappertutto il governo, ma non sulle scuole private. Arrivano 245 milioni per le scuole private. E ieri i fondi per le private dovevano essere a 150 milioni, invece adesso sono saliti a 245 milioni. È sempre un tema, è un problema di priorità, un po' quello che chiedeva il Presidente della Repubblica Napolitano, che oggi è tornato in una nota piuttosto piccato a dire: io non ho mai detto non fare tagli. Diversamente da quanto affermato dal senatore Maurizio Gasparri, il Presidente della Repubblica non ha mai sostenuto che non bisogna fare tagli alla spesa pubblica. Ha detto solo che bisogna assumersi la responsabilità di fare delle scelte e stabilire delle priorità in questi tagli. E che cosa aveva detto Gasparri da far irritare il Quirinale? Beh, questa mattina con Oscar Giannino nel nostro programma 9 in punto, sentiamo. Mi pare che abbia, insomma, nella sostanza riconosciuto i meriti di un governo che ha tenuto sotto controllo sul versante della finanza pubblica un contesto tutt'altro che facile, perché poi vedo che tutti dicono: ah, non bisogna fare tagli, non bisogna fare qui, anche il Presidente della Repubblica partecipa a questo esercizio, ma poi esternare è facile, governare i conti è difficile. Vabbè, vabbè, ne si è beccata la nota di Quirinale Gasparri. Allora, i dati di oggi sul PIL: nel terzo trimestre dell'anno rallenta la crescita in tutta Europa, il PIL fa più 0,4%, però la Germania fa più 0,7% nel terzo trimestre e porta la crescita al 3,9% sull'anno, quasi il 4%. La Francia fa più 0,4 in rallentamento, la Grecia fa meno 1,1, il Portogallo fa più 0,4 e farà più 1,5 nell'anno, l'Italia frena più 0,2 contro un più 0,5 fatto nel secondo trimestre e a questo punto è un più 1% rispetto all'anno prima, ma le attese erano di una crescita doppia. Ci colleghiamo allora con il direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. La Confindustria uscirà con il Centro Studi la prossima settimana con la stima della congiuntura flash. Buonasera Luca. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Non vogliamo delle anticipazioni, ma insomma voi avevate fatto una stima iniziale, se non ricordo male, questo terzo trimestre vi attendevate mesi fa un più 0,5, poi anche voi ci avete raccontato che insomma in realtà vi sarebbe stato un rallentamento. È un rallentamento più o meno nell'intensità, nella misura che vi attendevate? Beh, ovviamente no, nel senso che il dato è nettamente più basso delle nostre previsioni. Questo d'altronde era inevitabile considerato la caduta marcata che c'è stata in settembre della produzione industriale, meno 2,1% su agosto. È vero che in parte era una correzione di quel più 1,6 che si era avuto nel mese centrale dell'estate, però comunque ha trascinato giù tutta la media del trimestre e di conseguenza anche il PIL, di cui la dinamica della produzione è una componente importante. E quindi diciamo sicuramente questo incide su quella che è a questo punto un preconsuntivo del 2010, inevitabilmente più basso delle attese, ma soprattutto incide su quelle che sono le prospettive sul 2011 in termini di trascinamento che ci portiamo avanti, perché l'anno finisce peggio di quello che ci aspettavamo e quindi l'anno prossimo comincerà appunto più lento, cioè se si va in frenata poi si riparte più lenti. Domanda Luca Paolazzi, quindi la stima, quella che voi chiamate crescita acquisita, cioè quanto siamo cresciuti se immaginando che l'ultimo trimestre si crescesse zero? Beh, questo è esattamente il dato che ha già diffuso oggi l'Istat, è l'1%. L'1%. Noi diciamo sulla base di calcoli sul retro di una busta possiamo immaginare che l'anno chiuda tra l'1 e l'1,1, soprattutto però viene rivisto all'ingiù il dato dell'anno prossimo, ancora non possiamo anticipare numeri, però insomma è nettamente all'ingiù. Sì, sul 2011. Grazie e buon lavoro, poi ripeto la prossima settimana la stima sulla congiuntura del Centro Studi di Confindustria. Grazie al direttore Luca Paolazzi. Grazie a voi, buonasera. Ho dimenticato il numero di SMS, dicono alcuni, 349-238-6666 per scrivere al programma. Allora andiamo avanti con gli altri temi. Oggi vorrei usare il rap su Barack Obama e Wen Jiabao tutto il tempo, perché è veramente carino il testo, eh? Questi che fanno finta di essere nemici, poi intanto poi i cinesi si comprano il debito americano, l'America inonda la banca centrale americana inonda l'America di liquidità e di inflazione, se ne frega altamente dei danni che potrà fare agli altri paesi. Ma occupiamoci adesso di un tema non da poco, che comunque è sempre in linea, ossia cosa sta capitando alle obbligazioni europee e perché stanno crescendo così tanto i rendimenti. Allora, vediamoli un po' questi rendimenti, e intanto che stanno per arrivare gli ospiti in collegamento, i rendimenti ve li ricordo. Per quello che riguarda il BTP italiano siamo a 186 punti di differenza tra quanto rende lo stesso BTP tedesco. La cosa più importante è che mai verrà stata una differenza così alta tra BTP italiano e equivalente Bund tedesco. 186 punti di differenza sono tanti, però nulla rispetto a quello degli altri paesi o dei paesi considerati nella fascia debole dell'Europa. La Spagna infatti ha a 220, il 2,2%, il Portogallo è a 430, cioè 4,3% di rendimento, e l'Irlanda è al 5,7%. Allora, facciamo una cosa, facciamo la pausa, pubblicità, meteo, e poi parliamo di questo e anche della borsa. Cerchiamo di capire le attese sulla curva dei rendimenti, perché oltre ai movimenti a breve è importante vedere come si posizionano gli investitori nella parte lunga della curva. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi che apprezzano il rap che vi abbiamo fatto ascoltare, che prende in giro il finto scontro valutario tra Obama e Wen Jiabao, e quindi la Cina e l'America, e dice: attenzione, alla fin fine sono tutti d'accordo, non sono veri nemici, sono finti nemici, sono amici nemici. Volete sapere il nome addirittura? Dunque, si chiama la canzone US Sino Currency Rap Battle. E gli autori sono Next Media Animations. Insomma, vedete come l'economia poi pervade anche la musica rap. Chi le avrebbe mai detto un rap sullo scontro valutario tra dollaro e yuan? E vabbè, è venerdì, cerchiamo anche un attimo di respirare, però adesso subito una mazzata pesante come un macigno, sia il tema delle obbligazioni. A che punto sono gli spread? Lo tratteremo tra un secondo. Ripeto a chi ne ascolta, attenzione, non abbiamo detto che il livello delle obbligazioni italiane sia a rischio, abbiamo solo detto che è a livello più alto da quando esiste l'euro, che è cresciuta la differenza tra il rendimento obbligazionario tedesco e quello italiano del 30%. Andiamo con ordine, prima di tutto i mercati. E allora Livia Zancaner, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera Livia. Buonasera. Allora, saresti in grado di darmi i titoli di borsa con una base rap? Non lo so, potrei provarci, però non so se vi conviene. Allora, dimmi Geox, no, adesso diventiamo seri, dai. Il mercato oggi ha perso pochino in Italia rispetto al resto d'Europa, meno 0,1%, Parigi meno 0,94%, la peggiore, Francoforte più 0,17%, e Londra meno 0,42, l'America meno 0,61, Geox, che succede? E poi anche molte trimestrali. Comunque partiamo da Geox, meno 8,26%, dopo, se ho ben capito, conti e previsioni sul 2011 che tu ci illustrerai. Sì, allora il titolo è infatti virato pesantemente a ribasso dopo la pubblicazione dei conti trimestrali e delle, più che altro, delle stime sull'andamento dei primi mesi del prossimo anno. La società ha chiuso infatti 9 mesi con una flessione di oltre il 19% degli utili, 72,4 milioni, ma più che altro prevede un calo del fatturato a fine anno e margini sotto pressione nel primo semestre del 2011, ed è questo più che altro che ha penalizzato il titolo. E allora iniziamo quindi la raffica di trimestrali. Bulgari oggi, tra l'altro, mentre arriverà, se ho ben capito Livia, a mercati chiusi, quindi adesso quella del Banco Popolare. Sì, allora il Banco Popolare ha chiuso con un rialzo del 4,34% in attesa appunto dei conti che verranno pubblicati, sì, ora a mercati chiusi. Bisogna dire che il titolo comunque ha perso oltre il 18% dall'annuncio dell'aumento di capitale lo scorso 24 ottobre. Vi è inoltre un'altra cosa, infatti secondo quanto riportato dalla stampa oggi scade l'offerta presentata da BNP Paribas per rilevare il credito bergamasco, Cariluca e altri sportelli, ma secondo gli esperti il banco non prenderà in considerazione l'offerta nel caso in cui dovessero partire trattative per la vendita di altri asset, secondo gli analisti le dimensioni dell'aumento di capitale a quel punto potrebbero essere eventualmente ridotte. Comunque buon recupero oggi, più 4,34% il Banco Popolare, molto bene anche Parmalat, più 4%, anche qui i conti pesano in senso positivo. Sì, allora ieri la società ha pubblicato i conti, più che altro sono ritornate le scommesse relative a movimenti nell'azionariato, infatti secondo alcuni esperti vi è un'altissima probabilità, indicano una probabilità del 75%, che la società possa essere oggetto di operazioni di fusione, acquisizione o comunque di cambiamenti nella compagine sociale. Per quanto riguarda i conti, nei 9 mesi la società ha registrato una crescita del fatturato del 9,5%, ma l'utile netto è sceso di quasi il 30% a 198,5 milioni. Bene anche tra i bancari, oltre che la Popolare di Milano, più 1,91%, Monte dei Paschi più 2,72%, anche qui piano industriale conti. Sì, infatti ieri il gruppo ha comunicato il nuovo piano industriale per la prossima primavera e i conti trimestrali, che hanno mostrato un utile netto in crescita del 38% a 95,8 milioni. Inoltre il direttore generale Antonio Vigna ha di nuovo sottolineato che l'istituto non si sente sotto pressione per eventuali necessità di aumenti di capitale e con queste dichiarazioni sono d'accordo anche gli analisti, che ritengono improbabile una ricapitalizzazione nei prossimi 6 mesi. Allora, veniamo a Fondiaria Sai, perché è uscita i conti, i primi 9 mesi di Premafin, cioè la cassaforte finanziaria della famiglia di Gresti con cui controlla Fondiaria Sai. Praticamente la perdita consolidata balza a 457 milioni di euro, che somma 144 milioni di pertinenze del gruppo e 313 milioni di euro di perdita di pertinenze di terzi prodotti della holding degli Gresti. Il titolo Fondiaria, ma anche Premafin, come hanno reagito i due? Premafin in realtà non si è mosso particolarmente, infatti ha chiuso con un più 0,22%, Fonsai ha invece perso ancora terreno e ha chiuso a meno 1,47%, portando quindi il rosso dal 29 ottobre, cioè il giorno in cui i due titoli sono balzati grazie all'annuncio dell'ingresso dei francesi di Groupama, a oltre il 22% circa, quindi da quella data le azioni Fonsai hanno perso oltre, cioè il 22% circa. Ancora la Lazio continua a pagare l'aver perso il primato nella classifica, meno 9,20%, Geox, l'abbiamo detto, è il secondo più aggiunto titolo in assoluto, Esprinè meno 7,60%, tra i migliori, oltre a quelli citati, Safilo Group più 5,62%, novità su Safilo? No, in realtà non ci sono novità oggi sul titolo, ma bisogna dire che in Italia, quindi Bulgari, è andata male, ma all'estero, ad esempio, titoli come Richmond e PPR in Francia hanno chiuso in controtendenza, quindi probabilmente il titolo ha seguito l'andamento. E ancora, per quello che riguarda i titoli, Parmalat l'abbiamo detto, Montefibre, volete sapere come sono andati gli energetici oggi? Vi accontento subito, Eni meno 1,1 e dopo Eni anche, per quello che riguarda invece Enel, meno 0,43%, mentre positivo anche Unicredit, più 1,1%, CIR più 0,93%, Italcementi più 0,87%, Azimut più 0,80%. Adesso vi leggiamo un paio di trimestrali a ritmo di rap. Livia Zancanera, nella guerra a te e a tutti i colleghi di Radio Colle Sole 24 Ore. Un buon fine settimana, dimmi oh yeah. Oh yeah, anche a voi, grazie. Oggi butta così, è venerdì. Allora, Terna, l'utile nei primi 9 mesi più 32% a 372 milioni, investimenti più 54%, buoni conti per Terna. Saras, l'utile nei primi 9 mesi cala di quasi il 100% a 800.000 euro, ricavi più 63%. Allora, volete sapere anche di Fiat, come si è mossa Fiat oggi, meno 0,38%, adesso però dal tema della borsa, della settimana di borsa, passiamo a un tema un po' più delicato, che è quello appunto dei rendimenti delle obbligazioni dei PIGS, quindi Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, e anche dell'Italia. Allora, Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Non ti chiederò di reppare l'andamento dei rendimenti sulla nostra base preferita di oggi. Buonasera, Moria. Buonasera a tutti. Dunque, vediamo di capire, poi ne parleremo anche dopo il traffico, che cosa è successo. Gli ultimi movimenti sul fronte obbligazionario. Quando diciamo che la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e un'obbligazione italiana ha raggiunto i massimi dall'inizio dell'euro, è ovvio che la gente si spaventa. In realtà, forse è il caso di ricordare la classifica degli, quelli che voi chiamate spread, cioè quanto rende l'obbligazione tedesca, ossia il debito più sicuro che c'è in Europa, quello che costa meno rifinanziare, rispetto a quanto rendono o quanto devono pagare, per meglio dire, gli stati, per altri stati, per farsi finanziare i loro debiti ritenuti dal mercato molto più a rischio. Beh, certo, essendo il debito tedesco considerato il porto sicuro dove portare i soldi, ovviamente i rendimenti sono molto bassi, quindi i rendimenti di tutti gli altri stati ovviamente sono molto più alti. L'Italia attualmente paga circa 165 punti base in più, quindi vuol dire che un titolo di Stato italiano decennale rende, deve offrire agli investitori l'1,65% in più rispetto a un titolo tedesco. L'Irlanda è a 543, quindi 5,43% in più, il Portogallo 4% in più, quindi l'Italia, sebbene sia molto alto, ovviamente è a livelli decisamente diversi rispetto a questi altri paesi. Ecco, sulla curva, perché insomma le obbligazioni possono essere a un anno, a 5 anni, a 10 anni, a 15 anni, e quella che si chiama la curva del rendimento dice anche le prospettive del mercato, non tanto sull'anno, ma anche sui 10-15 anni, per cui magari puoi avere dei rendimenti molto alti sull'anno perché si ritiene che il paese abbia un po' di difficoltà nel prossimo anno, però poi li puoi trovare più in calo nei BTP a 10 anni perché si ritiene che comunque non vi sarà così, una così alta instabilità, oppure il contrario. Come si muove la curva dei rendimenti dei paesi che tu hai appena citato? Beh, la curva è positiva, nel senso che i titoli più lunghi sono più alti. Ovviamente quando la curva si inverte, soprattutto su titoli brevi, è perché si sconta un effettivo rischio di default nel breve termine, cosa che in realtà per l'Irlanda e il Portogallo si sconta anche, nel senso il mercato considera molto probabile un'eventuale ristrutturazione del debito, che equivale sostanzialmente a un default, anche se non è come ha fatto la Grecia. Ma è vero quanto scrivono alcuni ascoltatori che il livello irlandese, delle obbligazioni, che adesso vi ricordo perché tutti voi ce lo chiedete, insomma, sta già in qualche modo scontando. L'Irlanda praticamente al 5,7% di spread, di differenza in quanto rende il BTP a 10 anni rispetto a quello tedesco, ed era al 4,4, siamo passati al 5,7%. 5,7% è già un livello, diciamo, in cui il mercato scommette che vi sarà una ristrutturazione? Indubbiamente sì, anche per il Portogallo. Il mercato lo sconta, il mercato ne è convinto, anche se adesso si scommette che per esempio l'Irlanda presto otterrà degli aiuti dall'Unione Europea, e quindi in questo caso ovviamente la necessità di ristrutturazione sarebbe più bassa. C'è da dire che oggi nel pomeriggio gli spread sono molto scesi, si sono un po' ridimensionati, perché da Seul è arrivato questo comunicato congiunto di Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna, un po' più conciliante dal punto di vista degli aiuti e un po' meno duro dal punto di vista della necessità di ristrutturare i debiti, e questo ha, diciamo, calmierato il mercato. Adesso, dopo il traffico, la domanda delle domande, perché insomma, se i rendimenti sono alti, ma la difficoltà, o meglio, ma i paesi europei e la Banca Centrale Europea garantiscono che andranno in soccorso, la domanda spontanea che fanno molti ascoltatori è: perché non comprare obbligazioni irlandesi? La risposta dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Daremo anche un commento a molti sms che arrivano sui finanziamenti per la scuola privata, che sono aumentati nella finanziaria. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Moria Longo, il ragionamento che uno può fare è: messo, ma se le obbligazioni irlandesi rendono il 6,5%, se quelle portoghesi arrivano al 4,5%, e tanto la Banca Centrale Europea e gli Stati Europei dicono che c'è un fondo di garanzia, perché non comprare queste obbligazioni? questi bond, questi BTP? È una speculazione molto azzardata per tanti motivi. Innanzitutto perché l'Irlanda, per esempio, ha oggettivamente dei seri problemi di bilancio. Cioè, la Banca Centrale ha stimato che il costo per salvare le banche è di 85 miliardi, cioè il 55% del PIL, quindi non parliamo di briciole. È vero che c'è questo fondo di stabilità che è stato creato per aiutare gli stati, ma è anche vero che questo fondo di stabilità ancora non ha soldi, deve mettere obbligazione, raccogliere soldi per salvare, per erogarli eventualmente all'Irlanda o al Portogallo. È anche vero che oggi l'Irlanda ha detto che non li vuole questi soldi. È anche vero che la Germania ha sempre premuto affinché gli stati, per esempio, come è successo lunedì scorso, quando il ministro del finanza tedesco ha detto che gli stati potrebbero anche ristrutturare il debito, si vede che ci sono delle differenze politiche tra i vari paesi, con la Germania da una parte e gli altri paesi dall'altra. Quindi diciamo che la situazione non è affatto scontata. Ricordiamo che la Grecia, che era a un passo dal default, è stata salvata proprio per i capelli il giorno prima, per cui non è così scontato. E poi attenzione, quando si ristruttura un debito, chiaro che equivale a un default. Equivale a un default, per cui un po' come quando fallisce una società privata, chi ha le obbligazioni in mano, attenzione. Sì, anche perché se fosse una ristrutturazione, che adesso è stato detto che sarà fatta eventualmente dopo il 2013, ma se fosse una ristrutturazione significa da un lato allungare le scadenze e dall'altro ridurre il capitale. Ecco, il cerino resta in mano a chi ha comprato le obbligazioni. Un'ultima battuta, invece sul alcune cose che abbiamo letto, in cui in sostanza sembra quasi che la Germania abbia spinto, adesso passami il termine, per allargare le differenze, insomma, che facesse gioco alla Germania, mettiamola così, questo peggioramento della situazione irlandese, dei rendimenti, delle obbligazioni irlandesi, perché in questo modo l'euro ha perso, era 1,42 la settimana scorsa, viaggia 1,36, 1,37 oggi, ti risulta? Sì, è una malignità che si dice sul mercato, quello che pensano in tanti. Diciamo che nella cosiddetta guerra delle valute il dollaro si sta svalutando molto e l'euro sta salendo. Si tenga conto che la Germania è il secondo più grande esportatore al mondo dopo la Cina, quindi vive di export, più sale l'euro più l'export ovviamente cala. Cosa può fare un paese? Cosa poteva fare la Germania per ridurre l'euro, per abbassare il livello dell'euro? Per esempio riscatenare il problema dei debiti sovrani. Ricordiamo che tutto il problema di questa settimana sui debiti sovrani è nato da una dichiarazione del ministro delle finanze tedesco che all'inizio di settimana appunto ha ventilato l'ipotesi che qualche stato ristrutturasse il debito. È questo che ha scatenato la bufera questa settimana. Allora, dato che effettivamente l'euro ha perso quota rispetto al dollaro questa settimana, ci si può domandare legittimamente, forse non è così, speriamo non sia così, però ci si può domandare, il dubbio può venire se la Germania non l'abbia in fondo fatto apposta per abbassare il livello dell'euro nella guerra delle valute. Sì, diciamo. Nella guerra delle valute ci sta anche questo, e ci sta anche che poi noi ce ne avvantaggiamo, perché l'euro è anche nostro, un euro un po' più debole ci permette di esportare un po' di più. E visto che hai citato la guerra delle valute, Mori Longo, grazie e buon fine settimana anche a te. Di nuovo grazie, il nostro rap sulla guerra, finta guerra tra Cina e America. Allora, adesso passiamo in qualche modo a un ricordo di De Laurentiis, parlando di De Laurentiis che ieri è scomparso, parlando dell'industria cinematografica. Devo dare però alcune risposte sul tema delle scuole private. Mentre vedo che il nostro rap coinvolge anche lo studio e gli assistenti, Gaia Romani, Mauro Iccono, che ballano, e almeno ballano loro e non i mercati oggi. Allora, sulle scuole private qualche messaggio polemico. Attenzione, non è vero che sono stati ripristinati i finanziamenti l'anno scorso per le scuole private. Hanno ricevuto più soldi, non c'è niente di male, è un problema di priorità, ma basta dirlo. L'anno scorso, infatti, le scuole private hanno ricevuto 150 milioni nella finanziaria. Una finanziaria che ha tagliato, lo dico senza nessuna polemica, 8 miliardi e mezzo in 3 anni alla scuola statale. Allora, quest'anno l'idea era di dare lo stesso finanziamento dell'anno scorso, cioè 150 milioni di euro, ed era infatti l'ipotesi di ieri. Oggi, con la riformulazione del comma 47 del maxi emendamento, i soldi per le scuole paritarie sono saliti a 245 milioni. Mm. Allora, dicevamo il nostro modo di ricordare De Laurentiis, parlando del cinema come industria. Perché? Perché tra l'altro la nostra Marta Cagnola vi ha raccontato la settimana scorsa tutto il Festival del Cinema di Roma, che aveva un media partner importante, un main partner importante, ossia il gruppo BNL Paribas. Tra l'altro il gruppo BNL gestisce, tra fondi pubblici e propri, uno stock di attività di credito cinematografico pari a 600 milioni di euro. E allora sentiamo cos'è la proposta che è arrivata, anzi lo sentiamo dopo il GR, visto che c'è la sigla, me ne sono accorto anch'io. La proposta che è arrivata da Luigi Abete da un lato e Fabio Gaglia dall'altro, di tax credit, incentivazione fiscale per il cinema. Ci sentiamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora riprendiamo il tema dove l'avevamo lasciato. Il nostro modo anche per ricordare De Laurentiis, che è scomparso ieri, è parlare di cinema. Giustamente molti tassisti, che sono tra invece gli ascoltatori di Radio 24 più assidui, ricordano che alle 18 inizia a Milano la fiaccolata per il tassista deceduto Luca Massari. Avete ragione, ma i nostri GR se ne sono occupati e continueremo a occuparcene. Torniamo a parlare di cinema invece, ricordando in questo modo anche la figura di De Laurentiis, perché a una settimana di distanza, quasi, anzi una settimana esatta dalla conclusione del Festival del Cinema di Roma, abbiamo fatto il punto anche su quello che è l'investimento nel settore cinematografico. Dicevo che il gruppo BNL, che tra l'altro è il main partner dell'evento, il principale partner dell'evento, ha 600 milioni circa di credito, di stock, di attività di credito cinematografico. E allora il collega dell'agenzia di stampa Radio Corri sulle 24 ore, Massimiliano Zampini, ha chiesto a Luigi Abete, presidente di BNL, che cosa significhi concentrarsi in questo momento, quando si parla di cinema, di industria cinematografica, sul tax credit, ossia incentivazione fiscale per il cinema. Noi oggi siamo concentrati sul tema del tax credit, che io ritengo sia un tema fortemente rilevante e fortemente innovativo. Tax credit in realtà incentiva gli operatori del settore che ottengono dei risultati, quindi che guadagnano, a investire ancora di più nel settore, dando un vantaggio fiscale ai redditi prodotti dal lavoro, quindi non finanziamenti dello Stato. Il tax credit, e questo di cui ho parlato finora, è il tax credit cosiddetto interno. Il tax credit esterno attrae verso il settore le imprese di altri settori che decidono di investire una parte dei loro redditi nel settore cinematografico, avendone anch'esso in questo caso un minor costo fiscale, così come significa attrarre in Italia produzioni internazionali che altrimenti verrebbero fatte nell'est europeo piuttosto che in altri paesi del mondo. Quindi lavoriamo sempre su uno strumento che consente una minore tassazione su redditi aggiuntivi, quindi non ha alcun effetto sullo stock della situazione fiscale esistente, quindi non toglie niente a nessuno, incentiva chi fa a fare di più, e se uno fa di più si presuppone che non solo produce un vantaggio per se stesso, ma produce un vantaggio anche per lo Stato, perché crea redditi di lavoro e quindi redditi sottoposti poi a tassazione IRPEF, crea transazioni commerciali e quindi attività sottoposte poi a tassazione IVA. Quindi è uno di quei classici giochi a somma positiva che, per una dinamica un po' di vincolo di bilancio, ma soprattutto di vincolo culturale, se mi è consentito, viene mischiata ad altri strumenti e corre il rischio di essere annegata, / confusa. Così il presidente del gruppo BNL, Luigi Abete, è sempre, per quello che riguarda il gruppo BNL, sempre il collega di Radio Cor, Massimiliano Zampini, ha chiesto all'amministratore delegato del gruppo, Fabio Gaglia, anche gli impegni che il gruppo sta prendendo non solo sulle imprese cinematografiche, ma sulle imprese in generale. Cerchiamo di fare bene il nostro mestiere, quindi quello che il nostro compito è quello di stare vicino ai nostri clienti, famiglie e imprese per finanziare i loro progetti. Quindi il nostro sforzo, grazie anche al fatto che apparteniamo a un gruppo solido che quindi ha il capitale per investire, è quello di cercare di selezionare quelli che sono i nuovi progetti, i progetti appunto delle imprese, tanto più in un momento delicato come questo, di affiancarle, continuando a investire nel migliorare anche il nostro servizio per i clienti e la competenza dei nostri colleghi che devono capire al meglio le esigenze dei clienti stessi. Ci siamo messi alle spalle, almeno dal punto di vista di BNL, la fase in cui sembrava mancare un po' di sostegno appunto finanziario all'economia. Ma la ringrazio per la domanda, mi permette anche di precisare che noi non abbiamo mai fatto venire meno il supporto ai nostri clienti, gli impieghi, siamo stati in condizione di farli crescere in questi anni difficili dopo l'inizio della crisi finanziaria e quindi contiamo di continuare a farlo appunto bene, cercando di migliorarci continuamente, perché questo è il nostro scopo. Abbiamo da lavorare sulle competenze, possiamo offrire ai nostri clienti un insieme di prodotti ampio e completo per accompagnarli anche nei confronti della sfida sull'estero, che come sapete benissimo l'Italia e l'Europa fanno un po' più fatica a crescere rispetto ad altri mercati e noi abbiamo la fortuna di poter concretamente supportare lo sviluppo all'estero dei nostri imprenditori, per cui siamo pronti a farlo, desideriamo farlo e continueremo a farlo. Così appunto Fabio Gallia, amministratore delegato di BNL, gruppo BNP Paribas. Allora, come va la borsa? Milano, lo dico che si fosse messo in collegamento, ha perso poco oggi, meno 0,13%, Banco Popolare più 4,34%, il migliore, Geox meno 8,26%, nettamente il peggiore, l'America in questo momento perde lo 0,75%. Allora, abbiamo un po' anche scherzato all'inizio del programma, adesso i temi diventano, ahimè, serissimi. Infatti, dopo il traffico, torneremo a occuparci del tema che ci ha purtroppo accompagnato tutta la settimana e anche la settimana scorsa, i danni dell'alluvione in Veneto, a cui si sommano anche i danni nel Salernitano. Secondo le prime stime di Confagricoltura l'area ha subito danni, mi riferisco al Salernitano, per 500 milioni di euro, 4.000 ettari sommersi dall'acqua e 20.000 posti di lavoro a rischio. Con una notizia a mio avviso positiva dentro, diciamo, queste due tragedie, perché appunto quella del Salernitano si somma anche a quella del Veneto, ossia l'idea lanciata da Confindustria Veneto che il fondo di sottoscrizione lanciato a livello nazionale dalla Confindustria per gli associati per aiutare i loro colleghi delle aree alluvionate del Padovano, del Vicentino e del Veronese venga esteso anche alla Calabria e alla Campania. Facciamo una cosa, mandiamo il traffico subito perché poi di questo vorrei parlare anche con il presidente degli industriali veneti. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. :18:17, ultima parte di Focus Economia. Allora, torniamo sul tema che stiamo seguendo da vicino delle aziende, delle imprese, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori che hanno subito i danni dell'alluvione. A questo punto, anche se la situazione per fortuna in Campania sta, nel Salernitano sta migliorando, però appunto il dato, lo dicevo, mezzo miliardo di danni secondo Confagricoltura, 4.000 ettari sommersi, a rischio 20.000 posti di lavoro. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, qualcuno ricorderà il Presidente della Repubblica Napolitano che sostanzialmente ieri ha detto: attenzione, esiste un imperativo della solidarietà che è uno dei fondamenti della nostra Costituzione, un patto che ci lega come italiani. Ma quando si parla di questo imperativo dobbiamo dire che noi stiamo derogando a quei doveri di solidarietà. Così non sembrerebbe essere per, lo dico con massimo rispetto, per la Confindustria, non, che ricordate ha lanciato due giorni fa, l'abbiamo data in diretta, un'iniziativa di solidarietà nei confronti di tutti gli imprenditori del Veneto. C'è praticamente un conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena intestato a Confindustria Veneto, emergenza imprese, l'IBAN, lo leggo perché male non fa, è IT30G01030 e poi 03374 e poi 00000115 58239. Comunque sul sito di Confindustria trovate tutto, e questo è dedicato agli imprenditori, diciamo, ma non solo, di Confindustria, che vogliono dare una mano ai loro colleghi in ginocchio nell'area del Vicentino, del Padovano, di parte del Veronese. Però è arrivato un appello oggi da Confindustria Veneto, dal presidente di Confindustria Veneto, relativo agli associati del sud. Allora siamo in collegamento con Andrea Tomant, che è appunto di Confindustria Veneto, il presidente. Presidente, buonasera. Buonasera Sebastiano Barisoni, buonasera ai radioascoltatori, buonasera. Allora, voi cosa chiedete? Che questo IBAN che ho appena letto, questo conto corrente, possa essere dedicato anche alle aziende del sud? Mi faccia capire. Ma sì, in estrema sintesi, sfortunatamente dopo la calamità che ha colpito il Veneto abbiamo assistito anche ad una analoga situazione in Calabria e in Campania. Abbiamo apprezzato moltissimo l'iniziativa di Confindustria promossa dal presidente della piccola Vincenzo Boccia e da Emma Marcegaglia, presidente Marcegaglia. E chiaramente con uno spirito di piena condivisione abbiamo pensato che fosse opportuno unificare gli sforzi, utilizzare lo stesso conto corrente per aiutare anche chi è stato colpito da tale calamità in quelle regioni. Quindi ci sarà un unico conto corrente per i due eventi calamitosi che hanno colpito appunto Veneto da un lato, Calabria e Campania dall'altro. Beh, questo ci fa molto piacere, anche perché diciamo, di tutto ha bisogno questo paese tranne che di ulteriori divisioni. Già ci pensa la politica abbastanza. Chiudo la polemica e le chiedo com'è il computo a questo punto dei danni, perché poi non vorremmo che tutto passasse sotto silenzio dopo le varie visite istituzionali, e che iniziative state prendendo per gli imprenditori che in questo momento sono quasi incapaci di tornare all'attività? Beh, allora diciamo innanzitutto che si stanno ormai precisando le cifre. Il governatore Zaia darà una fotografia precisa lunedì, però i numeri ormai dicono che ci sono poco meno di un migliaio di aziende associate all'area di Confindustria colpite nelle tre province, nelle 3-4 province. Ci sono circa però 3.000-4.000 aziende, se contiamo un po' tutto quello che è in generale tra artigiani e commercianti eccetera, sono circa 10.000 ettari di terreno che sono stati coperti. Si stima a 400 milioni gli interventi per il danno e il dissesto idrogeologico e circa 600 milioni per tra imprese e ovviamente società civile, case, abitazioni, il danno che ha colpito le persone. Da questo punto di vista quindi si confermano grosso modo gli importi iniziali che erano stati stimati attorno al miliardo. Lunedì, come dicevo, ci sarà un intervento del governatore che oggi dovrebbe essere stato nominato anche commissario, quindi dovremmo aver raggiunto anche rapidamente una sorta di convergenza poi per sotto profilo decisionale per la gestione dell'emergenza. Presidente Tomat, avete fatto una stima di quando, o è ancora troppo difficile, la maggior parte delle imprese che lei citava, quindi le 1.000 in ginocchio più le 3-4.000 danneggiate, potranno riprendere l'attività, non dico a pieno regime ma quasi? Ma allora è difficile perché evidentemente non tutte sono state colpite in ugual misura e poi dobbiamo anche dar conto del fatto che in alcuni casi ancora l'insieme della viabilità o dell'infrastruttura non è ancora nelle condizioni migliori. Molti poi delle maestranze sono ancora coinvolte nelle abitazioni per rimettere in pristino le proprie condizioni di vita normale, che sono evidentemente l'aspetto primario comunque rispetto a questi problemi. Direi che comunque una piena normalità non arriverà per chi non ha subito danni talmente gravi da dover poi ordinare i macchinari che richiedono, ci auguriamo che non siano molti questi casi, dei tempi piuttosto lunghi, ci vorranno sicuramente un paio di mesi. Io credo che andremo di fatto poi all'anno nuovo per l'inizio dell'attività. Ovviamente questo per quello che riguarda, diciamo, le imprese industriali, commerciali, ma non dobbiamo dimenticarci che in verità ci sarà un danno molto più grave per l'agricoltura, perché qui con le colture salviamo, sì, diciamo, probabilmente in alcuni casi anche le stagioni, quindi stagioni, il danno è in quel caso è molto molto più pesante. Forte e pesante per l'impresa agricola. Un'ultima domanda, è un po' presto forse per parlarne, ma lei, assieme a altri esponenti della cultura, dell'impresa, della politica, delle istituzioni, del Veneto, ha firmato un appello in cui si diceva: vediamo di metterci attorno a un tavolo e ragionare su nuovi modelli di sviluppo che contemplino sviluppo da un lato, ma anche rispetto per l'ambiente. Dove vorreste arrivare? Ma credo che ci sia, come dire, una giusta sottolineatura su una attenzione, come dire, generale alla gestione anche del territorio. Devo dire che peraltro sotto questo profilo Confindustria da tempo, io mi ricordo poi come un'industria Treviso, i piani di insediamento industriali, ma anche la Regione Veneto con tutto quello che è stato messo diciamo sul terreno per quanto riguarda anche una razionalizzazione, un miglioramento dell'uso del territorio, una razionalizzazione dell'esistente, una concentrazione nelle aree industriali e una riqualificazione territoriale stesa, dalle discariche all'uso appunto del territorio per insediamenti industriali. Come abbiamo appreso anche, diciamo, più recentemente dagli studi dell'Università di Padova, ci sono molti modelli di gestione anche della situazione idrogeologica, in particolare in questo caso del Veneto, che credo sia opportuno, diciamo, mettere sul tavolo per evitare o perlomeno per mitigare questi effetti che alle volte chiaramente hanno anche delle dimensioni di estrema straordinarietà e che si verificano magari ogni 40-50 anni, per i quali comunque è opportuno mettere sia in cantiere delle opere di prevenzione. Aggiungo anche un addestramento, diciamo, a far fronte agli allarmi, alla possibilità di dare delle allerte per tempo. Devo dire che comunque poi il terzo tema sul quale ci dovremmo allenare è anche un po', come dire, di volontariato, cioè dobbiamo mettere nella gestione del territorio, perché le risorse sappiamo sono scarse, perché nel passato molto veniva fatto anche diciamo nella pulizia dei boschi, degli alvei, da interventi diretti delle persone che utilizzavano poi quei materiali per delle finalità, diciamo, di carattere economico, e quindi produzione di legna, da arte, certo, e quant'altro. Adesso può sembrare, diciamo, magari qualcosa anche di risibile, ma in verità era un'attività molto importante perché il territorio veniva presidiato, curato e monitorato. Sì, e di questo ci ha raccontato in maniera molto netta sia il collega Stefano Lorenzetto che lo scrittore Camon ancora una settimana fa. Grazie e in bocca al lupo al presidente della Confindustria del Veneto Andrea Tomat, in bocca al lupo a tutti gli associati veneti, ma anche importante l'iniziativa a sostegno anche di Calabria e Campania. Ripeto, si può versare su un conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena, intestato Confindustria Veneto Emergenza Imprese. Trovate tutto sul sito di Confindustria. E allora torniamo e chiudiamo il programma come l'avevamo aperto, con questo rap dedicato allo scontro valutario tra Cina e India, che dice: fanno finta di essere amici ma sono in realtà nemici. Giuseppe Cruciani, di cosa ti occuperai oggi? Sento che hai iniziato a mettere le canzoni anche all'interno del tuo programma. Non mi offendere. No, non mi offendere. Non ti sto offendendo. So dove vuoi arrivare, ma non mi offendere. No, non mi rovinare venerdì. Non ti voglio rovinare nulla, ma sono contento di questa evoluzione. O involuzione, secondo alcuni ascoltatori. Sai, poi si sa dove si inizia da questo punto di vista e non si sa dove si finisce. Parleremo della politica, inutile che ti dico di cosa, perché c'è una crisi politica in atto. Allora, crisi politica in atto per chi ascolterà La Zanzara tra pochi minuti. Da Sebastiano Barisoni invece un ringraziamento a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, Gaia Romani per l'assistenza in redazione. Un augurio a voi in ascolto di un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.